Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. YouTube Social Network. 17:05 minuti, eccoci alla seconda ora del nostro RadioTube, l'ultima puntata in diretta. Sono 6 anni, ho fatto il conto, è la 330esima puntata di RadioTube. Wow, sono tante, però torniamo insieme a settembre. Io non mi ricordo mai i giorni della settimana, credo sia il 5 settembre, il primo sabato di diretta, però come vi dicevo ci saranno tantissime occasioni per stare insieme anche ad agosto, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11 con i vari appuntamenti. Riascolteremo le interviste di RadioTube, riascolteremo Come nasce una canzone, riascolteremo l'Italia 45 giri e poi il sabato alle 15 e la domenica alle 10:30 ancora una, poi smetto, le serie TV consigliate da Marta Cagnola, che sarei io, un appuntamento che ci ha tenuto compagnia per 10 puntate podcast only, come dicono quelli bravi, solo in podcast, e che adesso ci terrà compagnia durante il fine settimana, appunto fino ai primi di settembre. Poi da settembre contiamo di ricominciare anche con il podcast, anche perché ci sono un sacco di serie TV che voglio consigliare insieme ai super esperti. Tra i super esperti c'è stato anche il nostro co-conduttore di oggi, Emilio Cozzi. Ciao Emilio. Ciao Marta, come state? Come estate? Come estate? Io molto contenta perché finalmente ti ho qui in studio. Hai visto che roba? Davvero mesi di co-conduttori a distanza. Bravissimi e tutto, però essere in studio è un'altra cosa, perché anche se da lontani ci si guarda. Emilio, tu hai fatto la puntata delle serie sportive e ovviamente quelle fantascientifiche, perché esatto. Il nostro Emilio, che non a caso ha come nickname su Twitter chiocciola addio e grazie per, e non vi spiego perché, perché se lo capite capite tutto, se no non potete essere miei amici. È un appassionato di spazio e tra poco ti faccio parlare di spazio, perché è successo qualcosa questa settimana. Ma andiamo un po' con i video della settimana. Ovviamente tutto il mondo e anche i giornali online, italiani, social, hanno parlato di lei. This issue is not about one incident. It is cultural. It is a culture of lack of impunity, of accepting of violence and violent language against women, and an entire structure of power that supports that. Allora, Alexandria Ocasio-Cortez, deputata americana, che si rivolge al Congresso dopo che il repubblicano Ted Yoho l'ha apostrofata con un appellativo che io non posso ripetere perché anche se è in inglese è consurato. Allora, io non sono una fan di Alexandria Ocasio-Cortez perché mi sembra un po'... dressed for success, cioè fabbricata per avere successo, perché ha tutte le carte giuste. Mi sembra un po' quasi artificiale, per quanto è giusta, no? Perfetta, è donna, sì, sì. È carina, è latina, eccetera, eccetera, eccetera. Quando una è troppo giusta, a me mette sempre un po' di dubbi. Però in effetti, però questa volta ci stava. Sì, sì, allora, sì. Ti dico la verità, io non sono anche lì una volta. Sai che mi sono presa della misogina da un ascoltatore che ha mandato una lettera di protesta? Perché hai parlato male dell'Ocasio-Cortez? No, perché dice che io odio le. No, ma no, ti spiego perché. Scusatemi. E appunto, perché poi non lo so, è un po' strano, però perché io negavo che un insulto rivolto fosse una battuta fosse sessista, mm-hmm. Cioè non bisogna vedere il sessismo ovunque, cioè io posso dare della scema a una donna senza essere sessista, certo, cioè posso essere, certo, volgare, posso essere inappropriato, però non è detto che sia puoi sessista. Puoi dare della scema perché magari è scema. Esatto, certo, ma io rivendico anche il fatto che uno mi dica che sono scema, cielo, che non sì. Debba avere paura a dire che sono scema perché sono donna. Però effettivamente questo insulto si può rivolgere solo a una donna. Certe cose non, anche no. Ma più che altro mi è piaciuto il passaggio dell'Ocasio Cortez. Tra l'altro qualcuno ha fatto notare, sembrava la scena madre di un film, per tornare a quanto sia perfetta. Troppo perché perfetta, è veramente... troppo orologeria quella ragazza lì, è troppo perfetta. La cosa su cui lei ha tenuto, come dire, a fare una sottolineatura è il fatto che il buon Teddy Ojo fosse con un altro politico, il quale non ha assolutamente reagito. Lei dice, e lì è evidente quanto sia questione culturale, quanto sia quasi normale rivolgersi a una donna con questi appellativi. E su questa cosa, francamente, io da uomo non posso che darle ragione, sinceramente. Certo, e la giustificazione, ma io ho moglie e figlie, non tiene. E lei l'ha detto, nella spiegazione, ha detto, tu puoi essere anche il miglior family man del mondo, puoi essere anche un prestigioso politico, puoi essere quello che vuoi, ma amico mio, così non si fa, e ha ragione lei. Anche perché se mi devi insultare, devi dirmi che sono una cretina, devi dirmi, insultami in quanto persona e non in quanto... Esatto. No, è che lo so che in inglese si potrebbe dire, però non è bello. Sì, in realtà non è esatto, la traduzione letterale non corrisponde, no, in realtà è più quello, leggero, sì. Però comunque leggero non è. Ecco, però è comunque un insulto che si rivolge solo a una donna e... Decisamente sì, ecco, decisamente ecco. Sì. E la cosa, come sempre, che lei può usare alla grande, lei ha fatto pesare tantissimo il fatto, e lì è stato davvero, secondo me, toccante il passaggio. Lei dice, io sono stata aggredita in questo modo quando facevo la cameriera, sono stata aggredita in questo modo quando in metro. E come tutte le donne sanno, questo tipo di aggressioni, ahimè, è estremamente frequente. E quindi, tornava a dire, è un problema culturale. E su questa cosa, però, cara Marta, c'ha ragione lei. Perfetta. Su questo ha ragione. Beh, posso essere volgare? Vai. Cioè, se mi devi insultare, dammi della stronza, certo. Ma non darmi della puttana. Certo, ecco, certo. Diciamo così. Sì, ecco. Sì. Quindi... È questo il punto. Anche gli ascoltatori che mi danno del... Beh, ecco, ditemi che sono stronza. Ok, è e a tutti punto. I bambini al telefono e alle mamme, alle mamme all'ascolto vorrei rivolgere un caro saluto caloroso. Bambini, non ripetete le parole che ho detto, le ho dette perché non vanno dette... Ecco, va bene così, non lo so. Perfetto. Sembravi la Cortés. Ocasio Cortés. Sì. Non ho il suo rossetto rosso perché ho la mascherina. Lei ha sempre il rossetto rosso preciso e non è l'unica. E giacca rossa, bellissima giacca in rossa. Questo caso. Ma capisci, troppo precisa, ma troppo precisa. A me mi piacciono un po' più ruvide. Un po' però, più ruspanti, un po' diciamo. Più ruspanti, sì, un po' più autentiche. Però gli americani piacciono quelle proprio... super precise. Vero. Rossetto rosso mi fa venire in mente Lucia Azzolina, anche lei, rossetto rosso d'ordinanza, questa settimana che sta tirando fuori una verve e anche un'autoironia. Vero. Vero, ammirevole. Vero, verissimo. Sai che secondo me sono Parenzo e Telese che le tirano fuori, perché in onda questa settimana lei ha fatto questo show. È un momento scusami, chiedo scusa Cairo, non allora, mandiamo, la mandiamo tra qualche minuto la pubblicità, prego ministra, così. Non è difficile come vedete sedersi e lavorare, tra l'altro sì, ero io, ho avuto qualche difficoltà, forse lei un po' più sì, un po' più va bene, è io più sono comodo. Più abituata a stare ma scusi, se uno ha i rocci, è presente il vocabolario rocci, greco, non c'entra sì. Qua. Ci entra i rocci qui, sì, rocci tutto il resto c'entra, ma voi siete malpensanti proprio, ma lei faceva le versioni a memoria senza neanche guardare. Perché era secchiona. Va bene, ma pubblicità, torniamo tra poco. Latte Biosas, vivi nascosto. Va, andiamo, a tra poco. Allora, però io... Ah, l'ascoltatore che mi manda sempre gli insulti. Stronza o puttana, una bella lotta. Perché no tutte e due? No, mi devi scrivere solo stronza. Ma chi è costui? Scusatemi. Non lo so, tutte le settimane mi manda... No, ma ormai lo conosco. Mi manda messaggi in continuazione. No, e lui... comunque, è così, vabbè, anche lì, se sei con te. Vabbè, a te lo concedo. A te, ascoltatore, lo concedo. A te va, per te tutto. Allora, però di questo, questa volta io non voglio parlare dell'Azzolina, voglio tirare fuori un altro tema. Allora, io ho fatto il classico. Il Rocci. Ma perché questa cosa? Cioè, ma i Rocci e le citazioni di greco, ma anche meno, anche Parenzo, anche meno. Concordo. Cioè, non è che adesso, anche perché il classico l'abbiamo fatto quanti anni fa? Cioè, quanti decenni? Io tanti. Io parecchi. Vero, perché io e te siamo quasi coetanei. Quindi, tanti anni fa l'abbiamo fatto. Anche basta, questa menata del classico. Anche basta, sono d'accordo. Tra l'altro il problema lì che ci stava, su quel banchetto ci sta solo il Rocci volendo metterlo sopra. Però sì, sono d'accordo. Sì, poi io invece ho un altro dubbio. Io sono mancina, ma secondo te riesco a scrivere sul banco? Perché io con i banchi quelli con la col ribaltino lì ho sempre fatto fatica. No, infatti, perché non hai il gomito nel vuoto. So, hai il gomito nel vuoto, so, diventa più so. Difficile, diventa più difficile. Secondo me, non so, dicono che funzionano anche bene, ma non lo Comunque, so. Comunque, sì, possiamo dirlo, basta questa cosa basta, del classico. E le citazioni in greco, no. E Rocci. Dai, diamoci pace. Abbiamo fatto fatica, ma 100 anni fa. Non ricordo quale comico, appunto, come dire, anche lui, evidentemente ex studente del classico, disse che una volta andando in Grecia ordinò col suo greco un panino e gli risposero: questo panino non lo facciamo più da 2500 anni. Ed è vero. Quando vai in Grecia e fingi di leggere le scritte, intanto non riesci a leggerle e poi tanto non le capisci. Esatto. Quindi che cosa. Vabbè. Vero, il classico vero. È prescritto, ragazzi. Basta cose sul liceo classico. Allora è il momento di dare la linea alla viabilità. Oggi abbiamo scelto Casa Surace per lanciare i blocchi della viabilità. Sono secondo me tra i più bravi youtuber del momento, e non solo del momento, ma soprattutto sono riusciti anche durante il lockdown a fare cose carine, e non era scontato. No, non era scontato. I tentativi sono stati tantissimi, come dici tu, però quelli riusciti davvero pochi, ma riusciti molto bene, però bisogna dirlo. Sì. Loro sicuramente sono tra questi. Loro sì, eccoli qua, Casa Surace. Ma io esco, vado un po' da Nicole, ci vediamo dopo. E aspetta, ti preparo qualcosa da mangiare. Ma che mi devi fare? Sono le 4, alle 5 sono l'altra volta qua, un'ora e torno. Aspetta. Metti che ti viene fame. Logica, spazio, tempo. Modul Block, l'evoluzione del magazzino. Vi presenta... RadioTube Social Network. Internet mi chiede un brano spensierato, l'estate sta iniziando, che cosa inventerai? Ma lasciatemi un po' stare, che non sono dell'umore, il mio entusiasmo è un bradipo. Ho solo voglia di sparire, forse torno in quarantena, o mi imbarco per la luna e vi guardo da lassù. Faccio un ultimo concerto nel bel mezzo del deserto e poi non ci si vede più. Eppure basterebbe una frase semplicissima, anche quest'estate si tromba dalla prossima. Eppure basterebbe una frase semplicissima, anche quest'estate si tromba dalla prossima. Sarà contento l'ascoltatore che adesso ha scritto che la zanzara è una sola. No, ma prima non stavamo dicendo parolacce per dire parolacce, ma stavamo parlando del discorso di Alexandria Ocasio-Cortez, perché si riferiva proprio alla scelta degli insulti. Ecco, allora con Emilio Cozzi, il nostro co-conduttore d'eccezione, in studio con me finalmente, dopo tante settimane di conduttori lontani. Questo era Ruggero dei Timidi, che ha fatto questo video molto carino. Il testo, non ripeto il titolo perché anche qui siamo in zona zanzara, però sono contenta perché dopo qualche tempo che ha postato questo video finalmente è entrato nelle tendenze di YouTube. E siccome lui secondo me suona anche bene, cioè... Sì, ha una sua legittimità, mettiamo così. Sì, cioè, in mezzo a tante cose, tante parodie insulse, secondo me tra i tormentoni di quest'estate ci sta. Ci sta perfettamente, tra l'altro anche il video molto estivo, molto fresco, come si diceva qualche tempo fa, in spiaggia, con una parrucca, diciamo, rivedibile, però direi che... E la sua, ovviamente. Opportuno, visto il momento. Opportuno. Tra l'altro, vabbè, devo ringraziare il mio amico Fabio, che ogni volta mi segnala le cose di Ruggero, dei timidi, io rido moltissimo perché a un certo punto lui dice, adesso non mi ricordo com'è la frase, però forza uscite l'ukulele. Sì, e quindi, uscite l'ukulele. Quindi è proprio il mio, cioè è proprio la mia canzone, infatti la dovrò studiare appunto all'ukulele anche quest'estate, sì, alla prossima, bravo Ruggero. Come Marilyn Monroe, come anche lei suonava l'ukulele, Marilyn. Ma io per quello sono l'ukulele, certo. Perché io mi credo Zucchero Kandinsky. giusto, uguale, proprio identica. Poi l'ascoltatrice Daniela che dice che sono piena di me ha ragione, no Daniela, proprio io e l'autostima non siamo parenti, ma ci sto lavorando ma su. Ma poi chi se ne frega. Allora, andiamo su... andiamo a Bologna. Delizioso. Dopo ti dico. Ok. Il video io l'ho preso da Repubblica perché io ne ho sentito parlare, non c'erano video che circolavano di quello che è successo qualche sera fa. Ecco qua. Questa maggiore. Quei vecchi davanti. Allora, i vecchi davanti, la signorina ride. Circostanza. Sotto le stelle del cinema, queste proiezioni molto belle della Cineteca di Bologna in Piazza Maggiore, un buon tempone ha sostituito la proiezione, non so come, con la proiezione di un film porno in piazza. Esattamente, sì. Allora, a me fa ridere. Allora. Perché io mi immagino... davvero, se vedete questo video, nelle prime file ci sono un sacco di signori anziani. Sì, attentissimi, tra l'altro. Nessuno si distrae. Loro erano andati a vedere il solito grandioso film muto e invece... Secondo me, io se mi trovassi di fronte a una cosa del genere, penserei soprattutto in una circostanza... assolutamente, certo. Che è quello che ho pensato io, visto che Bologna è città tradizionalmente, come dire, celebrativa del cinema e anche dell'arte. Se tu pensi al Link degli anni 90, alla Cineteca, io quando ho visto della notizia pensavo, insomma, coraggiosi, ma pertinenti. Ci sta una grande retrospettiva sul porno degli anni 70, no? La Golden Age. Poi ho scoperto che era un tizio che l'ha fatto da... Ed è eccezionale. È bellissima, no? Invece, io mi immagino, io davanti a questa cosa avrei detto, ma pensa che situazionismo di questo regista, esatto, che a un certo punto nel film inserisce, esatto, per il patello bourgeoisiano, per sconvolgere... Sì, lo spettatore. Per sconvolgere lo spettatore, una scena hard. Cioè, tra Buñuel e... è una roba pazzesca. Sì, proprio. E invece no, era un pazzo di 24 anni che credo la polizia abbia già pizzicato, che l'hanno preso. Sì, È un'idea, però... Questo lo racconterà per tutta la vita. Credo anche quelli della prima fila, però, e questi signori davvero mai così attenti alla proiezione di mezzanotte, bellissimo. Beh, incredibile, non lo so, io sarei rimasta lì a guardare per capire il senso. Cosa della... è successo? Ma perché fa? Ma perché ma perché durante questo film succede? No, però, non è andata così. Però veramente grande gesto situazionista. Sì, tra l'altro, questo ragazzo ha fatto una raccolta fondi in rete per pagarsi l'avvocato. Certo. E ovviamente la cifra si l'ha raggiunta record subito. Di gente che vorrebbe che lui gestisse, evidentemente, o curasse la programmazione a questo punto. Certo. Già fan attentissimi. Oh, ragazzi, certe cose sono a Bologna, città straordinaria. Vero, che dire. Che è andata così. Piena Piazza Maggiore con la chiesa a pochissimi metri. Era veramente un gesto. Hai ragione tu, gesto situazionista. Sì, buonanotte, avete capito, no? Comunque, sì. Beh. Ah, dai. Allora, adesso andiamo in zona molto tua. No, non che adesso non voglio forse il lancio non era giusto, ma non importa, perché c'è un ascoltatore che ha scritto al 3492386666 che la risposta al tuo nickname è 42. Bravo ascoltatore, il nickname su Twitter di Emilio Cozzi è addio e grazie per, e la risposta è quella giusta, è 42, esatto. È 42. Ascoltiamo quest'audio che viene appunto da un mondo che tu conosci molto bene. Ma cosa sta succedendo? Cos'è partito? Non è mi partito, sembra un'auto, no? Non è un'auto, no. È partito Tianwen 1, cioè un razzo che fa parte della missione cinese destinata a Marte. Questo era il 23, l'altro ieri mattina alle 6.40 in Italia. E insomma, è un'estate marziana, cara Marta. Non so quanto questo e Piazza Maggiore di prima siano contigui, però mi piace pensare che lo siano. Non riesco a trovare il nesso, ma ho paura di chiedertelo. Missione cinese, sì. Già questo mi incuriosisce molto, perché noi siamo cresciuti con Russia, anzi con Unione Sovietica e Stati Uniti. Vero. Quindi cosmonauti contro astronauti, una corsa allo spazio che era di alcuni paesi, invece adesso è proprio cambiato il panorama. È cambiato il panorama, è un'altra corsa allo spazio. Tu, Marta, quando accuserai i primi sintomi di noia, fammi cenno, perché io posso parlare no, per no, ore. No, ma sai che io ho solo... cioè, noi abbiamo tutti da imparare dalla passione di Emilio Cozzi per lo spazio. Dici bene, è una nuova space race, cioè una nuova competizione spaziale, laddove la Cina è molto probabile prenderà proprio il posto che era dell'Unione Sovietica. Tanto che ha anticipato di una settimana il lancio, che pure farà la NASA, il 30 luglio. Avremo due finestre di lancio alle 10.50 e 13.50, dove Mars 2020, cioè la nuova missione marziana della NASA, raggiungerà Tianwen 1 e, attenzione, la sonda Hope degli Emirati Arabi Uniti, per confermare quello che dicevi tu poco fa, che è partita 10 giorni fa, è partita il 19 luglio. Quindi in questo momento abbiamo Emirati, Cina e NASA che stanno andando su Marte. Manca l'Europa per diversi motivi che non ti dirò, se non vorrai. No, sono curiosa a questo anni. Punto. Ah, però partiremo anche noi? Fra due anni. ExoMars 2020 è diventata ExoMars 2022. Però ci avevamo da fare ultimamente. Altre cose, sì, era un po' impegnati. Ma la domanda è, queste missioni sono nemiche, rivali, collaboreranno? Che cosa succederà? Perché tutti vogliamo sapere come Marte. Certo. Allora, beh, in questo momento life on Mars, come la vita su Marte. Esattamente, che è proprio, tra l'altro, ha anticipato, quello cerchiamo, e questa è la cosa bella. Noi cerchiamo tracce di vita passate o presenti sul pianeta rosso. Peraltro a me è capitato di intervistare da poco un geologo italiano, siamo a Francesco Salese, che è stato il primo a dimostrare la presenza di rocce in falesia, si dice, cioè a dimostrare che 3 miliardi e 700 milioni di anni fa Marte era come la Terra, c'erano laghi, fiumi giganteschi, un oceano e forse la vita. Quello cercheremo. Adesso siamo un pochino nella fase di studio. Francamente la Cina è un po' autarchica in questo, e francamente l'Europa è stata ammonita dalla NASA, soprattutto l'Italia, quando sembrava che ci fosse un principio di collaborazione, mentre invece stiamo collaborando ovviamente con la NASA, come abbiamo sempre fatto, con gli Emirati Arabi collaboreremo. La mia speranza è che anche con la Cina collaboreremo, cosa che succederà, ma adesso siamo in una fase di studio, mettiamola così, perché andare nello spazio vuol dire avere primato tecnologico e quindi anche militare. Sì, perché le scoperte sono davvero utili per capire appunto la natura del pianeta, se c'è stata vita, se un domani potrà essere abitato Marte. Però le scoperte tecnologiche sono anche scoperte che ci servono subito, i materiali, cioè vengono testate delle cose che poi servono anche nella vita di tutti i giorni. Ti faccio due esempi. La NASA, l'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, sta studiando appunto nell'ipotesi di mandare i primi pellegrini su Marte, cosa che potrebbe succedere tra la fine degli anni 30 e l'inizio degli anni 40. Pazzesco. Hanno già brevettato una stampante biologica che produce pelle e ossa, perché tu capisci che un viaggetto adesso su Marte tra andata e ritorno potrebbe portarti via 3 anni. Se tu a qualche milione di chilometro dalla Terra ti ferisci, ti ustioni o ti spacchi un braccio, devi poterti autoriparare. Tu pensa a quella tecnologia come servirà sulla Terra. Faccio un altro esempio: il defibrillatore, che fu inventato per lo spazio e venne rimpicciolito per portarlo, perché ogni chilo che spari in aria costa un sacco di soldi, quando riuscirono a rimpicciolirlo per lo spazio, ebbene il defibrillatore andò in tutte le palestre, in tutti i centri sportivi della Terra. Questo è lo spazio. Però sai che a me viene un po' d'ansia. Cioè, tu sei appassionato, però a me sentire, cioè, che qualcuno prende e ci mette 3 anni per arrivare su sì. Marte. Tra andata e ritorno sono 3 anni per adesso, sì. Bisogna essere fatti proprio in modo diverso. O vai su con qualcuno che ti è molto simpatico, questa è l'altra opzione, insomma. Si parte tutti insieme, facciamo un viaggio di quanto tempo? 3 anni, insomma, devi proprio andare d'accordo con i colleghi, Anche perché non puoi uscire, come dire, a fare un giretto. Se sei annoiato... Basta! Se... esatto. Non ti sopporto più. Esattamente. No, è davvero una cosa affascinante, ma mette un po' i brividi, perché hai proprio la sensazione di qualcosa di infinitamente più grande di te e mette un po' d'ansia. Eppure, sempre questo geologo mi ha fatto un esempio, bellissimo. Noi siamo agli albori dell'era. Noi abbiamo iniziato ad andare nello spazio 59 anni fa, sono pochissimi, siamo all'inizio. Lui dice: fra qualche anno, degli studenti di una scuola marziana ci guarderanno come noi oggi guardiamo i nostri antenati che per la prima volta abbandonarono l'Africa per attraversare il mare. È verissimo. Verissimo, è verissimo. Verissimo. Sorrido perché Alessandro Schirano ci scrive: è la trama di Space Force. Space Force su Netflix. Bellissimo. È proprio quello. La sfida. Sì, sì. Tra i cinesi e gli americani. È la trama di questa serie di cui abbiamo parlato nel nostro Ancora una poi smetto. Non ci aveva proprio appassionato. Cioè, diciamo che la serie era un po' sotto le nostre aspettative. Sì, però è quello. È quella roba lì. Un po' di pausa e poi abbiamo ancora un po' di argomenti scoppiettanti nel nostro RadioTube, la nostra 330esima puntata di RadioTube. Mamma, io ho fatto la valigia, è tutto pronto, parto. No, aspetta, dove vai? Il pigiama nuovo. Mamma, lo sai che non lo uso, poi me l'ha regalato il mese scorso, sta ancora nella busta. Che me ne devo fare del pigiama nuovo? Che me ne faccio? E metti che ti succede qualcosa e devi andare all'ospedale? YouTube Social Network. Eccoci ancora insieme con il nostro RadioTube Social Network, l'ultima puntata in diretta prima della pausa estiva con il nostro co-conduttore d'eccezione Emilio Cozzi. Ciao Emilio. Ma che onore, ma che bello. Ah, che bello, sono contenta io. Ah, un ascoltatore mi ha scritto una cosa che io non sapevo, che gli astronauti americani si chiamano astronauti. Io sapevo, infatti l'ho subito detto con orgoglio, Unione Sovietica, cosmonauti. Erano cosmonauti. Esatto. Ma ho scoperto che i cinesi si chiamano in un altro modo. Taikonauti, esatto. Non lo sapevo. Esatto. Tra l'altro, questa è una bella i cinesi sono gli unici ad aver mandato in maniera autonoma i propri astronauti nello spazio, cosa che per esempio addirittura anche gli americani hanno fatto, solo appoggiandosi almeno fino a il 30 maggio di quest'anno, quando è partita SpaceX. Tra l'altro fra poco tornano a casa i due astronauti. Uh-huh. Ebbene, dovevano appoggiarsi ai russi, mentre i cinesi potevano da soli mandare i propri taikonauti nello spazio. Hai capito? Space Force, la trama di Space Force. Adesso vorrei farti sentire un pezzettino di un video che mi ha fatto un po' arrabbiare. È difficilissimo in questo momento avere a che fare con alcuni argomenti senza cadere nelle accuse. Prima abbiamo parlato delle accuse di sessismo, delle accuse di... E non è neanche razzismo, non lo so. Allora, il canale di YouTube che io seguo con passione è Learn English with Papa Teach Me. È un professore di inglese che dà dei consigli molto belli sull'inglese, sulle sfumature, sulle espressioni che magari ci hanno insegnato a scuola ma in realtà non si usano nel parlato. E ha fatto questo video che si intitola Do not say, stop saying, cioè non dite più, basta dire questa cosa. Eccolo qua. Hi, I saw the name of this class and I want to speak English like a native. I hate my accent and my teacher isn't a native speaker, so... Whoa, okay, wait. First, I love your accent. It's amazing, cool, it's unique to you, that's your style, that's your identity, bro. Allora, devo parlare perché è tutto in inglese. Salve professore, vorrei assistere alle sue lezioni perché lei ha un ottimo accento, invece io non ho un buon accento, perché il mio professore non è madrelingua. No, non dire assolutamente così, il tuo accento va benissimo così, è unico, ti contraddistingue. Poi anche gli insegnanti non madrelingua possono essere migliori degli insegnanti madrelingua. E questo youtuber vuole cambiare i titoli dei suoi video, perché prima si chiamano Stop Saying. Basta dire. Adesso dice no, che però è troppo aggressivo, perché tutto sommato fa sentire in minoranza, fa sentire insicure le persone. Ma non possiamo più neanche dire che una cosa è sbagliata e una cosa è giusta in inglese. Vedi, si va da un estremo all'altro. Mi sembra troppo. Sì, così c'è un'eccessiva sensibilità. Peraltro mi dispiace dirlo adesso, verrò accusato di questo. questo, vedo una certa ipocrisia anche. Guarda sì. caso, nel discorso prima della Ocasio Cortez che dicevamo, se tu lo riascolti, ascolti il video che poi ne è uscito, quando lei ripete la parolaccia c'è un beep. Ora, io dico, sta facendo un discorso proprio perché l'hanno apostrofata con quel termine e tu non me lo fai sentire perché forse mi offendo. Capisci che dopo che un parlamentare gliel'ha detto, cioè diventa un cortocircuito veramente, sembra Christopher Nolan, cioè un film a scatole, non capisci più nulla. Sono d'accordo con te, questo è un eccesso di sensibilità. Allora io chiederei cosa ne pensa Michele Boroni, un carissimo amico di Radio TV, che sono contenta di avere l'ultima. Cosa ne pensi Michele? Ciao Michele. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao Emilio. Cioè, ciao, non potremo più neanche dare i voti a scuola, perché esatto. se io ti do un'insufficienza, sto dicendo che è una cosa è sbagliata, ma magari per te è giusta, e allora io sto offendendo la tua sensibilità nel pensare che questo sia giusto. No, è il politicamente corretto che fa un salto triplo e che poi alla fine fracassa nel terreno. No, anch'io sono abbastanza con voi su questa critica, mi sembra tutto abbastanza abbastanza assurdo. Era una cosa che succedeva soprattutto in America, adesso mi sembra che la cosa si stia anche estendendo anche in Europa, anche nella stessa Inghilterra, che insomma è sempre stato un paese abbastanza aperto da questo punto di vista, insomma anche sul dire le cose come stanno in modo piuttosto tranchant. E quindi ci sono anche artisti che si cambiano il nome, comici che chiedono questa scusa. Settimana c'è stata un'artista che ha cambiato il nome. Sì, perché... Black Madonna perché non era politicamente corretto. Ecco, siamo veramente. Sì, però lì non è politicamente corretto dire Black, però è politicamente corretto dire Madonna. E allora a questo punto anche Madonna non è politicamente corretto, no? Giusto. E non ne usciamo più, Non ne usciamo più. Comici che si scusano per battute, ma neanche di quelle triviali, ecco, cantanti che cambiano copertine a vecchi dischi, ma siamo veramente io sarò antica, ma voglio ancora i professori che mi dicono che questa cosa è, cioè io voglio un professore di inglese che mi dica questo è un errore, oppure che mi insegni una pronuncia giusta, non so, però sono antica, io sono ancora dell'altro millennio. Non eravamo ancora star di TikTok, cara Marta. Ah, dopo ti faccio sentire una roba di TikTok, che vabbè, dopo te la faccio sentire. Ma, caro Michele, vorrei tornare su un tema caldissimo, perché ne abbiamo parlato la scorsa settimana, ma siamo ancora qui. Andiamo a prendere una story di Fedez. Il titolo di questo giornale dice: Chiara Ferragni riduce il Botticelli ad un tormentone social, a parte che vorrei capire che cazzo sia un tormentone social, ma vabbè. Poi però appena leggi l'articolo, appena lo apri, i primi tre righe sono: il problema non è Chiara Ferragni, il problema sono gli Uffizi. E allora mi chiedo, perché cazzo avete messo Chiara Ferragni nel titolo? Voi che dovreste avere come priorità l'arte, mettete gli Uffizi nel titolo. Sapete perché non mettete gli Uffizi? Perché se aveste messo solo gli Uffizi, l'articolo l'avrebbero letto molte meno persone. Quindi siete molto più Novella 2000 che dei critici d'arte. Siamo d'accordo su questo, no? E soprattutto... tormentone social. Chi è che crea il tormentone social? Lo crea Chiara Ferragni o lo create voi con una polemica inutile del cazzo? Che parole forti, Fedez. Allora, intanto Fedez, che io adoro, io grande fan di Fedez, grande fan di Chiara Ferragni. Fedez, quando fai le paternali ai giornalisti, però mi arrabbio. Perché i giornalisti ti servono, queste polemiche comunque ti servono. Quindi... Fedez, guardami negli occhi, ti dico, le critiche ai giornalisti perché parlano di voi, no. Ma lo sa, dai che lo sa, è furbo il tuo amico Fedez. Lo so che lo sa. Però, Michele, questo effetto Ferragni, queste polemiche sulla Ferragni, stai ridendo e scherzando, sono 10 giorni che si parla della Ferragni agli Uffizi. Sì. Io l'ho trovato veramente un dibattito che ci stava, no? Perché comunque è un caso e quindi è importante parlarne, eccetera. Però il dibattito era veramente povero, perché era un dibattito che era su Ferragni sì, Ferragni no. E mai non ho mai sentito nessuno che è andato un po' a come dire, a fare una critica positiva o negativa che sia sulla strategia o sul contenuto dell'operazione Ferragni-Uffizi, che per me non è stata, cioè io se devo muovere una critica non la faccio certo agli Uffizi che hanno chiamato la Ferragni e nemmeno mi metto a difendere la Ferragni in tutto e per tutto, ma mi metto a fare una, come dire, un'osservazione, una considerazione su quella che è stata appunto la strategia e il contenuto, che è stata abbastanza triste da quel punto di vista lì, perché alla fine cosa hanno fatto? Gli Uffizi hanno utilizzato la Ferragni come si utilizza un testimonial nelle spot degli anni Ottanta su Mediaset. Questa è stata un po' la cosa, non ci ha costruito sopra attorno un contenuto, una narrazione, cosa che la Ferragni è una cosa che sa fare anche di lavori, invece è stato tutto molto, molto banale, ecco, e quindi alla fine l'operazione sì è riuscita più che altro perché c'è stato il famoso rimbombo di cassa, l'eco chamber che è diventata appunto lo stesso Fedez, che poi ha continuato a fare la polemica sulla polemica sulla polemica sulla polemica. Quindi ecco, io l'ho trovata, anche gli stessi critici d'arte, no? Da una parte Tommaso Montanari, lo storico dell'arte, che era, diciamo, contro questo tipo di associazione, no? tra Uffizi e la Ferragni, dall'altra parte Sgarbi, che invece dice no, è tutta promozione. L'ho trovata sempre molto, molto, molto all'acqua di rose. Però sai che io so una cosa che però non posso, io non la posso dire. Ma come no? Non la posso dire. La posso dire perché è una cosa segreta. Questa cosa della Ferragni, cioè, è solo l'inizio. Ma l'ha detto lei a un certo punto. Sì. A un certo punto ha detto che questo non è ancora niente. Sì, perché? Allora, sì, c'è una cosa che non la posso proprio dire. Vi dico delle cose. Allora, ci sarà questa cosa di Vogue, lo shooting che hanno fatto. Vogue Hong Kong. E lei sarà la testimonial di una cosa molto grossa che riguarderà gli Uffizi in Asia. Ecco. Però non ci hai detto niente. Non ho detto niente. Ma sono contento, nel senso, perché mi sembrava un'uscita un po' misera. Sono contento quindi... che invece è qualcosa di più organico. Ho degli uccellini che mi hanno svelato delle cose. Hai ragione tu, caro, perché il modo in cui fai le cose fa la differenza. Tolto questo, che appunto fa la differenza, ma dov'è il male se gli Uffizi o chi per loro utilizzano chiaramente la portata, come dire, l'audience e il modo di informarla della Ferragni? Faccio giusto per tornare al mio, in questi giorni, in queste settimane, si parla del fatto che Tom Cruise potrebbe girare il primo film nello spazio. Collaborando con SpaceX e la NASA. A questa notizia, che è stato un leak di piena pandemia, immediatamente è arrivata dopo questa notizia la conferma di Bradenstine, il boss della NASA, che dice: grazie al cielo è tutto vero, utilizzeremo questi importanti personaggi per diffondere quello che facciamo e sensibilizzare la gente in modo tale che un domani la preparazione scientifica e tecnologica diventino di moda. Questo è fantastico, giusto, secondo me. Giusto. Assolutamente. Sono delle attività di divulgazione in maniera non... mi verrebbe a dire non ortodossa, non è così... Non tradizionale, mi piace. Divulgazione PR, diciamo. Tra divulgazione PR, è il 2020 ragazzi, funziona così. Allora, una breve pausa per la viabilità, poi vorrei parlare anche con Michele Boroni di musica, perché è successo qualcosa di molto particolare in questi giorni, a tra poco. Sveglia, è sabato! Dai, ma appunto, è sabato, sono le 7! Lo so, è stata pure tutto. Yos. Signora, mi scusi, ma che ora arrivano gli ospiti? Ma che ne so? Mamma, almeno per capire quanti sono. Non lo so. Qui, signora, non vorrei sembrare maleducato, ma devono venire degli ospiti. Ma che ne so io, mica li ho invitati. Tu avevi invitato a qualcuno? No! Oh. Ma metti che vengono. Metti che invece... RadioTube Social Network. If I could sail a galleon ship, long, lonely rider across the sky, seek out mysteries while you sleep, and treasure money cannot buy. È difficile parlare sopra Nick Cave. L'ultimo spicchietto del nostro RadioTube con Emilio Cozzi. Grazie Emilio di essere venuto in radio fisicamente a trovarmi. E abbiamo in collegamento Michele Boroni. Michele, eccoci qua. Eccomi qua. Che cos'è questo Nick Cave che abbiamo sentito? Cos'è successo questa settimana? Allora, è successa una cosa un po' strana, ma forse sarà la prima delle tante per i prossimi mesi. In pratica Nick Cave ha registrato nei giorni scorsi un concerto di 90 minuti all'Alexandra Palace, che è una importante sala concerti a Londra, da solo al piano. Ha chiamato un cast tecnico importante, tra cui Robbie Ryan, che è il direttore della fotografia nomination all'Oscar per La Favorita nel 2019, e ha fatto questo concerto in 90 minuti che poteva essere visibile a pagamento su una piattaforma, diciamo, di streaming che si chiama Dice, pagando €15, e quindi chiunque pagando poteva vedere questa cosa. L'hanno chiamata una live performance, in realtà certo lui suonava dal vivo, ma non era quel live che noi pensiamo quando parliamo di live, no? E quindi anche senza pubblico, però insomma il fatto che sia in diretta dal vivo invece era registrata, quindi era un qualcosa che stava a metà tra la pay per view e il concerto live. Comunque, al di là di questo, bellissimo, perché insomma 90 minuti molto intensi, insomma chi conosce Nick Cave sa l'intensità che lui riesce a trasmettere, anche se non con la sua band e senza fare quel rock forte che lui di solito è la sua cifra, però anche da sola al piano riesce a essere straordinario. E quindi insomma una delle tante tanti nuovi format che vedremo nei prossimi mesi, in questi mesi in cui non potremo vedere dei concerti dal vivo, e quindi sono in tanti che si stanno attrezzando attraverso lo streaming. Sì, soprattutto gli artisti internazionali, perché sì, qualche concerto abbiamo cominciato a vederlo con grandi limitazioni, ma prima che possano arrivare artisti internazionali in Europa ce ne vorrà. Sì, certo. Il prossimo, tra l'altro, la cosa interessante di Nick Cave era che era, al di là che fosse registrato, però c'erano tre tipi di programmazione diverse a seconda del continente, quindi insomma in America, in Italia e nell'Estremo Oriente c'erano tre orari diversi dove potessi collegare con la piattaforma streaming. Un altro importante evento per i prossimi mesi sarà quello di Björk, che in un teatro farà tre concerti con tre band diverse, tre orchestre diverse, e anche queste attraverso la solita piattaforma potrà essere visibile alle 7 di sera qua in Italia, acquistando appunto questo biglietto digitale. D'altro non caro, perché ho visto che erano appunto €15, qualcosa del genere. Sì, 15 euro. Devo dire, io preferirei, anche se in orari assurdi, lo preferirei in streaming, in diretta, però. Sì, sono d'accordo. Dai, un concerto live. Ma per percepire anche l'eventuale imperfezione, l'indecisione, quello è live anche, no? Poi vuol dire adesso, se Nick Cave, se lo vedi dal vivo, anche solo sapendo che però è lì che sta facendo quella cosa mentre lo guardi, insomma, io già se sentite l'emozione nella voce. Sì, è una cosa diversa comunque vederlo è comunque bellissimo, però mi manca il concerto di presenza, almeno dal vivo. Questa è la mia soprattutto antica. No, assolutamente. Infatti Bjork sarà dal vivo. Oh, Bjork è brava Bjork. Bjork è una garanzia. Grazie a Michele Boroni, un abbraccio grandissimo. Grazie di essere stato con noi. A te Michele, grazie. Un abbraccio grande, poi tanto ci ritroveremo a settembre, perché Michele Boroni lo chiamiamo spessissimo, perché è davvero uno dei più cari amici di Radio Tube. Come? Così come Emilio Cozzi, ho appena detto che sono anziana. Allora, questo è stato l'anno di TikTok. Oggi sono andata a vedere qual è il numero uno dei video nelle tendenze di YouTube, ed è un video di 1-2-3 Challenge sulle sfide di TikTok. Sei pronto a sentirti molto anziano? No, però vai. Dai, sentiamo. Vediamo cosa propone la nostra prima sfida TikTok. Anna, è un elastico per la prossima sfida? Prova a toglierlo dalla faccia, senza usare le mani, soltanto i muscoli facciali. Pronte? Andiamo avanti, gente! Vedete questa maglietta? La indosserò rimanendo in piedi sulle mani. Questi bicipiti mi aiuteranno nell'impresa. Pensi di poter tenere in equilibrio un bicchiere con dell'acqua? Sembra abbastanza facile. Ma riesci a tenerla in equilibrio sulla tua testa, poi abbassarti a terra, sederti sul pavimento e poi tornare in piedi? La risposta è... no! Queste sono le sfide di TikTok. Per fortuna no! Per fortuna no! Vabbè, viva i ragazzi che hanno voglia, energia e capacità di fare queste cose. Questo è stato l'anno di TikTok. Beh, insomma, è stata una bella stagione. Per questo RadioTube devo ringraziare tantissimo Emilio Cozzi per essere stato con noi. È l'ultima puntata. Poi tanto ci rivedremo da settembre nelle nuove puntate della nuova stagione, la 330esima oggi. Grazie Emilio Cozzi, chiocciola Dio, grazie per trovarlo sui social. Io devo ringraziare per questa puntata in regia Roberta Frisani, in redazione Edoardo Lavezzari, Alessandro Schirano che mi ha dato una mano sempre per confezionare RadioTube e anche un grande supporto perché è il bastone della mia vecchiaia. Noi ci salutiamo qui per le puntate in diretta, torneremo da settembre e poi da lunedì, come avete sentito, tutti i giorni dalle 11 il fine settimana, poi con Ancora una poi smetto. Beh, sarà una lunga estate ancora insieme. Ancora un saluto da Marta Cagnola. Mamma, ne usciamo, ce devo fare un giro. Copriti che il tempo è variabile. È una variabile, però estate fa caldissimo. Metti che piove. Metti che sudo. Bravo. Hai visto, sono la stessa. Metti che te rombo riesta. Copri scappi. E vai, scappi. Vuoi usare le armi mie contro di me. Un ragù. E metti che sa zecca. Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con SuperSite, suoruba.it